Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medios. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. Nobel, vecchi e nuovi. Cominceremo con uno famoso, John Nash, e poi continueremo con i nuovi, perché questa è stata la settimana di assegnazione dei premi. Buonasera, benvenuti a Möbius. Ecco i titoli. Un migliaio di persone a Bergamo Scienza per ascoltare John Nash, famoso matematico, ma anche uomo di grande umanità. Ispirò il film A Beautiful Mind. Quelli veri e quelli improbabili sono le settimane dei Nobel svedesi e anche dei paradossali Ig Nobel. Dalle fibre ottiche al reggiseno che si trasforma in maschera antigas, il passo è breve. Capodogli volanti e altre amenità. I 30 anni della guida galattica per autostoppisti. Bergamo Scienza, John Nash. Così domenica scorsa è iniziato l'incontro con John Nash, matematico, autore di importanti contributi nella teoria dei giochi, contributi che sono stati applicati in molte aree diverse della conoscenza. Due esempi, la teoria dell'evoluzione della specie e l'economia. Per le applicazioni in quest'ultima area, l'economia, appunto, John Nash si è aggiudicato il Nobel nel 1994, ma non può certo sfuggire a nessuno e nemmeno a lui, come sentiremo, il fatto che la presenza di un migliaio di persone a una sua conferenza sia da attribuire a quel film A Beautiful Mind, che ha raccontato la sua non facile esistenza. Oggi John Nash è un signore di 81 anni e lavora nella prestigiosa Università di Princeton. John Nash ha studiato in particolare quella parte della teoria dei giochi che si dedica a capire quali siano le strategie migliori perché in una data situazione nella quale un certo numero di soggetti deve raggiungere un obiettivo, ognuno deve e vuole raggiungerlo, quali siano le strategie migliori per ottenerlo, dicevo, dovendo scegliere a seconda dei casi se collaborare con qualcuno, se stabilire alleanze oppure se fare da soli. All'origine di questi studi è un famoso gioco matematico noto come il dilemma del prigioniero e all'inizio della sua conferenza ne ha parlato anche Nash. In the prisoner's dilemma, if both players defect from the idea of cooperation, where they both go to prison. Vi faccio una sintesi di quello che ha detto Nash. Il dilemma del prigioniero ci parla di due persone che sono arrestate perché sono implicate in un delitto, ci sono indizi su di loro e naturalmente la polizia vuol risolvere il caso e trovare dei colpevoli. I due sono in celle separate ma poi saranno interrogati. Cosa conviene loro fare? Collaborare e coprirsi a vicenda, confessare entrambi, accusarsi l'un l'altro. Un'altra applicazione significativa degli studi di Nash si ha nella teoria dell'evoluzione della specie. Lui ne ha parlato dopo la sua lezione plenaria in una conferenza stampa in un locale con un po' di rimbombo, ma comunque sentiamo. I can work on the evolution theory and game theory in the text which I... Lui qui cita dei casi di simbiosi fra piante e rocce addirittura, quindi fra una struttura animata e un'altra che non lo è, oppure casi fra piante e funghi che si scambiano contributi energetici. E da questi studi quello che sta emergendo è che in molti processi naturali la cooperazione è vincente rispetto alla strategia, che peraltro è un'interpretazione forzata del darwinismo, la strategia del vinca il migliore, il più forte, che gioca da solo. Durante l'incontro con la stampa è stato inevitabile chiedere a Nash come veda il fatto che a una sua conferenza arrivino 1000 persone e lui così ha risposto con molta sincerità e mi viene da dire anche con molta tenerezza. Well, you know, it's possible to argue that this room is not filled with... Penso che si possa dire che la gente che è venuta ad ascoltarmi, più che essere interessata ad argomenti di matematica o economia, è arrivata per la reputazione che ho acquistato grazie al film. Nel mio caso c'è una storia che passa attraverso quella che potrei definire una specie di età oscura. A partire dal 1959, per arrivare all'85 circa, ho attraversato un periodo di grande instabilità mentale, nel quale passavo da momenti relativamente normali ad altri di grande confusione. È stato un periodo molto difficile. Non riuscivo nemmeno ad avere un lavoro normale. Poi invece sono riuscito a stabilizzarmi, ad avere una modalità normale nel mio pensiero e ho capito che potevo riprendere a pensare normalmente. Quindi io non posso certo essere una persona arrogante, perché so bene i momenti di grande debolezza che ho incontrato nella mia vita. Vi dicevo poco fa, quando si parlava delle ricerche di John Nash, vi dicevo dei riflessi che queste stanno avendo sulle teorie evoluzioniste, quindi si parla di specie viventi, no? I conti tornano perché con la definizione teoria dei giochi non ci si deve fermare a un'interpretazione stretta. È vero che è una teoria che trova applicazioni anche nell'analizzare le strategie di molti giochi. Però ci sono molte altre situazioni nelle quali, se ci pensate, si gioca una partita. Nella lunga storia della vita in un pianeta, le specie che si susseguono nel tempo, nei milioni di anni, non sono forse impegnate in un gioco complesso dove ogni essere vivente è preda e predatore, dove le condizioni ambientali anche si pongono come sfide da superare, come regole da rispettare, ma che non necessariamente si riesce appunto a rispettare, perché le partite vanno così, no? Le regole del basket dicono che bisogna infilare una palla nel canestro, ma non è affatto detto che una squadra riesca a farlo a sufficienza per superare il turno. In queste partite complesse ci sono due strategie fondamentali con le quali è necessario fare i conti. La prima, fare alleanze con qualcuno per essere più forti contro altri. La seconda, scegliere una modalità cooperativa oppure seguire il motto solo contro tutti. Oggi si riesce con il computer a simulare delle popolazioni. Ogni essere che vi appartiene è, per esempio, rappresentato da un piccolo quadratino di qualche pixel di lato, con delle regole di sopravvivenza. Le simulazioni poi si fanno partire e si vede cosa succede dopo 100.000 generazioni. Ebbene, quello che sta emergendo è che il comportamento cooperativo è quello che maggiormente ottiene risultati. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Carol Grader, Elizabeth Blackburn e Jack Szostak sono i tre premi Nobel per la medicina di quest'anno. Ho in linea Maria Luisa Lavitrano. Buonasera Lavitrano. Buonasera a tutti voi. Una delle nostre migliori ricercatrici nel campo biomedico, appunto in Italia, insegna e fa ricerca all'Università Milano Bicocca. Allora, Lavitrano, tre scienziati, tutte e tre operano negli Stati Uniti. Qual è il centro, diciamo, di questo premio, della motivazione? Il premio è stato dato e concesso per uno studio molto bello e molto elegante che hanno fatto tutti e tre sulle telomerasi e sui telomeri. I telomeri e le telomerasi sono, come sono stati definiti dagli stessi autori, il principio della fine. In realtà i telomeri sono dei segmenti di cromosoma che si trovano all'estremità dei cromosomi e che proteggono i cromosomi dalla degradazione a partire appunto dall'estremità. Questi segmenti di cromosomi sono delle sequenze non trascritte, quindi non contengono dei geni veri e propri, non servono per produrre proteine funzionali, ma solamente per proteggere i cromosomi. E sono delle sequenze estremamente importanti perché garantiscono l'integrità del cromosoma stesso e quindi del genoma. Hanno dei meccanismi di replicazione molto particolari perché non durante la replicazione delle cellule non vengono replicati col meccanismo usuale, ma sono replicati da un enzima particolare che è l'enzima telomerasi, che è parte della scoperta di questi signori e che di questi colleghi americani e che gli ha valso anche il Nobel. Questa enzima è estremamente importante perché non solo garantisce la corretta replicazione della parte terminale dei cromosomi e quindi la loro protezione, ma anche perché garantisce l'invecchiamento delle cellule. Mi sembrerà strano sentire che l'invecchiamento delle cellule debba essere garantito. Questo è un concetto molto interessante perché la natura ci protegge dal cancro attraverso l'invecchiamento. Qualche anno fa è stato pubblicato un bellissimo lavoro su Nature che raccontava proprio questo concetto. Le cellule devono invecchiare per non correre il rischio di andare incontro alla trasformazione neoplastica. Molte cellule, soprattutto le cellule che sono più esposte agli agenti esterni, come per esempio le cellule di tutti gli epiteli di rivestimento interno ed esterno, possono andare incontro a delle mutazioni genetiche che derivano appunto dalla loro esposizione ad agenti potenzialmente tossici e mutageni. Ma questo mi farebbe dire, siccome poi la motivazione è anche, hanno scoperto cose importanti per combattere l'invecchiamento, che per riuscire a vincere l'invecchiamento dobbiamo passare pericolosamente vicino al cancro praticamente. Sì, diciamo che l'invecchiamento non si vince, l'invecchiamento si ritarda ormai. No, come diciamo sempre noi patologi, è un processo assolutamente fisiologico che inizia più o meno a partire dalla nascita e si conclude con la morte dell'individuo. Quindi è un processo assolutamente necessario, assolutamente fisiologico. Non dobbiamo combattere l'invecchiamento, che naturalmente l'obiettivo finale della medicina e comunque di tutti noi è quello di garantire una vita in buone condizioni di salute e buona qualità di vita. Però ciò detto, la cosa estremamente importante nell'invecchiamento delle cellule è che queste abbiano la possibilità di essere ricambiate, ovvero una cellula che è invecchiata deve morire, necessariamente, e la morte delle cellule è prevista dal programma biologico. Cosa succede quando questo meccanismo di mantenimento dei telomeri e quindi della lunghezza dei cromosomi non è regolato, è deregolato secondo invece il programma naturale? Succede che le cellule diventano immortali e queste sono per esempio le cellule neoplastiche, e da qui poi la relazione tra invecchiamento e cancro. Senta la Vitrano, lo chiediamo sempre ai nostri analisti del Nobel, è soddisfatta da questa assegnazione? Ah, guardi, sono estremamente soddisfatta, intanto per un motivo che non è un motivo direttamente scientifico. Questo Nobel è stato dato per la prima volta a due donne insieme. Le donne da tempo danno un contributo significativo alla scienza, al progresso scientifico, ma spesso non sono questi i loro sforzi, insomma il loro impegno non è stato coronato non tanto dal successo scientifico, gli è sempre stato attribuito, però non è stato coronato dall'attribuzione del premio Nobel. Ci sono pochissimi Nobel che sono stati dati alle donne, con questi due sono 15 in tutto, di circa 500 che sono stati assegnati per la medicina. Quindi vedete che il numero, la percentuale è molto bassa. E poi sono contenta per un altro motivo, ed è quello che questo Nobel è stato dato per una ricerca, come noi chiamiamo, traslazionale, cioè è una ricerca molto di base, è una ricerca che ha contribuito a scoprire dei meccanismi che sono alla base della replicazione, della morte delle cellule, e che però è traslazionale, cioè nel senso che è assolutamente utile ed pone le basi invece per un approccio diagnostico e terapeutico per una patologia importante come la patologia neoplastica. Quindi è una ricerca di base con dei risvolti e delle applicazioni che possono andare molto vicini alla clinica rapidamente. Grazie la Vitrano. Arrivederci. Con Barbara Gallavotti, ciao Barbara. Ciao Federico. Parliamo del Nobel della fisica, è andato a fibre ottiche e dintorni e il nostro ospite è Sergio Bertolucci da Ginevra. Buonasera Bertolucci. Buonasera Pedrocchi. Allora, direttore della ricerca al CERN di Ginevra, Barbara, loro usano un sacco di queste cose, no? Lo chiediamo a Bertolucci. Beh, diciamo che queste cose sono usate dall'intero mondo della scienza e anche da ciascuno di noi. E in effetti quest'anno bisogna dire che l'Accademia ha premiato non una ricerca che ci ha aperto nuovi orizzonti sull'universo, su qualcosa di fondamentale, ma qualcosa che ci ha veramente cambiato la vita. E fra l'altro non hanno neanche rinunciato a un tocco di poeticità nell'annunciare questo premio. Hanno annunciato i signori della luce. I signori della luce, bellissima come motivazione. Lei è d'accordo, Bertolucci? Sì, sono molto d'accordo. Questo riconoscimento va a premiare due contributi molto importanti che ci hanno cambiato moltissimo il modo di vivere, perché a partire dalle fibre ottiche che sono alla base delle telecomunicazioni, alla base di internet, ci sono credo tante fibre ottiche in giro per il mondo da fare il giro del mondo 25.000 volte. Probabilmente sì. Un miliardo di chilometri stanno all'Accademia esatto. Svedese. Ah. E hanno reso possibile ad esempio internet, perché altrimenti non sarebbe bastata né la banda passante, cioè la quantità di informazione, né la potenza per mandarla tutta questa informazione in giro per il mondo, sfruttando le fibre ottiche che hanno lunghezze di attenuazione molto, molto lunghe. Oggi si possono fare fibre che perdono qualche percento del segnale, molto meno di qualche percento del segnale in un chilometro. È possibile coprire grandi distanze e soprattutto è possibile infilare in una fibra piccolissima una quantità enorme di informazione. Certo. Il record oggi del mondo credo ce l'abbia sempre un laboratorio della Bell, che sta in Europa tra l'altro, che riesce a trasmettere a una distanza tra Parigi e Chicago, 7.000 chilometri, 400 DVD al secondo. I numeri sono questi. Sì. Ecco, diciamo anche il nome di questo vincitore, è Charles Kao, è nato a Shanghai e ha lavorato agli Standard Telecommunication Laboratories della Gran Bretagna e alla Chinese University di Hong Kong. Sì, esattamente. Questo per le fibre, no? Però in questo momento quanti milioni di fotografie saranno state scattate da cellulari? Miliardi di sicuro. Miliardi. Penso che contando tutte le fotografie contate sino adesso, si può pensare che nel mondo ormai quasi ogni telefonino ha una macchina fotografica attaccata, poi tutte le macchine a basso prezzo. Certo. Pensando che ognuno di noi probabilmente fa qualche migliaio di fotografie, insomma, sono sempre numeri impressionanti. Barbara, questo è l'altro premio, no? Sì, l'altro premio che è andato a Willard Boyle, di origine canadese, e a George Smith, sono stati entrambi al lavoro presso i laboratori Bell negli Stati Uniti e hanno inventato questa macchina CCD che fra l'altro ha cambiato il nostro modo di fotografare, ma anche il modo di fotografare degli scienziati, vero Bertolucci? Sì, assolutamente sì. Se pensate che uno dei grandi telescopi che guardano l'universo ha una macchina fotografica con una CCD da qualche gigapixel. Noi adesso siamo abituati a comprare le macchine fotografiche, professionali adesso hanno tipicamente 10-15 megapixel, e questa ne ha un fattore 100 in più, è un CCD che ha una sensibilità incomparabile. Pensi anche che le CCD in generale hanno permesso delle cose che con la pellicola sarebbero state molto difficili da fare. Una pellicola tipicamente ha un'efficienza alla luce del 2%, una CCD ha un'efficienza alla luce del 70-80%. Cosa intende per efficienza alla luce? Cioè la quantità di luce che riesce a utilizzare, in una pellicola uno butta via il 98% della luce di un'immagine perché non riesce a impressionare la pellicola. In questo senso, cioè quanta luce ha bisogno per attivarsi, sì. Il CCD è sensibilissimo. È certo. Molto più sensibile. Questo è talmente permette, sensibile che la usate esempio, persino voi nella ricerca delle particelle, giusto? Sì, sono state usate in una maniera più creativa nella ricerca delle particelle, usando i pixel, le singole unità, per registrare il passaggio di particelle cariche, non di luce, avendo una risoluzione in posizione estremamente alta, perché uno va a determinare il passaggio di una particella con una precisione di millesimi di millimetro. Grazie Bertolucci, a presto. Grazie a voi, arrivederci. Ciao Barbara. Ciao Federico e buonasera a tutti. Il premio Nobel per la chimica è stato assegnato anche questa settimana, quindi in questa puntata non abbiamo tempo, ne parleremo la prossima. È stato assegnato a Venkatraman Ramakrishnan, indiano, Thomas Stites e Ada Yonath, quindi un'altra donna. È stata una puntata del Nobel molto attenta alle ricercatrici, l'hanno vinto per i loro studi sulla struttura dei ribosomi, quindi siamo sempre intorno a quegli ingredienti fondamentali della vita. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ora arriva il nostro gioco, siamo al quiz. Fra pochissimo capirete il senso di questa scelta nel quiz. Allora, la domanda brevissima è: quanto può vivere una mucca? Prima risposta, fino a 60 anni, se la si lascia vivere ovviamente, ci scriverete 60. Fino a 50 anni, ci scriverete 50. Fino a 25 anni e ci scriverete 25. Dove? Beh, con il solito SMS ci scriverete 349-238-6666. Il libro che si vince è Guida Galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams, edito da Mondadori, e anche di questo ne parleremo più avanti. In collaborazione con IBS.it. Siamo ai Nobel pazzi. Chiara Albicocco qui con me, a te ricordare che cosa sono gli Ig Nobel, come ogni anno, per chi non ci avesse sentito altre volte. Sì, buonasera a tutti. Allora, gli Ig Nobel sono una parodia, se vogliamo dire così, dei Nobel veri. Vengono assegnati all'incirca una settimana o due prima dell'assegnazione quelli veri. Probabilmente anche per non influenzare, non si sa mai. Certo. Dico che è una parodia perché in realtà si premiano delle ricerche che hanno un po' dell'assurdo. Gli organizzatori amano dare questa definizione dei loro premi, che sono i premi che all'inizio fanno ridere e poi però fanno pensare, fanno riflettere. In effetti è così. Adesso piano piano faremo una carrellata di quelli che quest'anno sono stati assegnati e vedrete che è così. Ignobile è ignobili, no? Ignobili, no. Esatto. Ed è la 19ª edizione e anche la manifestazione avviene in maniera del tutto particolare. E il successo di una ricerca e di un'altra viene sancito da un lancio di aeroplanini di carta sul palco. E quindi più uno riceve aeroplanini più la ricerca ha riscosso successo. E poi devo dire che questa è una cosa molto interessante, dovremmo prendere spunto da questo: le presentazioni delle ricerche devono durare non più di un minuto. Qualora uno superasse questa soglia, una bambina a piedi nudi, simpaticissima, ci sono dei video che la ritraggono, entra e dice I'm bored, che vuol dire mi sto stufando, sono proprio stufata. Sì, esatto. Sì, sì. E lo blocca. Olà. Direi di partire con la 19ª edizione, Premi Ig Nobel 2009. Il premio Ig Nobel per la pace quest'anno è stato assegnato a dei ricercatori dell'Università di Berna che hanno stabilito se sia meglio, oddio, qui per la pace dobbiamo ancora stabilirlo, se sia meglio colpire in testa durante una rissa con una bottiglia di birra piena o una vuota. E ti dico la verità, il risultato è che la bottiglia vuota fa molto più male. Fa molto più male. E quindi è un po' più pacifica e siamo in piena assurdità. Il premio della biologia è stato vinto da tre giapponesi, in tutti questi vi risparmiamo i nomi perché sono veramente tanti, per aver dimostrato che sfruttando batteri estratti dalle feci di panda gigante è possibile ridurre la massa dei rifiuti biologici domestici del 90%, il che sembrerebbe proprio una ricerca inutile perché i panda ormai sono rimasti in 20, quindi le feci a disposizione sono pochine. Se l'ambiente, il nostro pianeta e dovesse dipendere da lui, benissimo. Esatto. Andiamo alla medicina, questo è davvero divertente. Il ricercatore che è stato insignito del premio Ig Nobel per la medicina ha fatto uno studio su di sé e praticamente ha studiato la possibile causa dell'artrite alle dita facendosi scrocchiare ogni giorno per 60 anni, attenzione, soltanto la mano sinistra, mantenendo quindi intatta quella destra. Ed è venuto fuori che in effetti non è che ci sia proprio una relazione tra l'artrite e lo scrocchiamento delle dita. Non c'è. Con la destra immagino perché scriveva gli appunti. Quella magari sarebbe servita. Sì. Siamo l'economia, dirigenti, impiegati, addetti all'auditing delle quattro banche islandesi, un paese travolto dalla crisi, per aver dimostrato che una piccola banca può diventare rapidamente un colosso e tornare piccola e che la stessa cosa può essere fatta per un'intera economia nazionale. Direi che questa è una sottolineatura del disastro che è successo in Islanda. E secondo me è anche un filino cattivella questa. Ed anche un filino cattivella. Andiamo alla fisica. E l'Università di Harvard e l'Università del Texas si sono aggiudicati l'Ig Nobel per la fisica per aver stabilito per via analitica, quindi aver portato la dimostrazione che le donne in gravidanza, le donne incinta, non cadono rovesciandosi, perché sai, con lo spostamento di baricentro potremmo anche... Il centro di massa si porta fuori, però effettivamente noi non donne, si ribaltano. Noi donne per terra non ne vediamo molte da tanti anni. Fortunatamente. Insomma, certo. Chimica. è stato vinto dal ricercatore dell'Università Nacional Autonoma in Messico per uno studio sulla creazione di diamanti dalla tequila. La prossima settimana, quando parleremo di chimica, cercheremo di capire meglio questa cosa. Questo vorrei assolutamente approfondirlo. Sì, mi sembra un po' difficilina. Creiamo un business. Sì. E ora passiamo alla salute pubblica, che mi sembra veramente un premio azzeccatissimo. È stato dato all'Università di Chicago per aver inventato un reggiseno del modello un po' push-up che rapidamente si apre in due e diventa maschera antigas. Praticamente da un reggiseno si ottengono due maschere antigas, quindi si pensa sia al soggetto sia al compagno che le sta accanto. E mi sembra veramente un'invenzione utilissima. Siamo alla matematica, vinto da Gideon Gono, lui da solo, governatore della Banca Nazionale dello Zimbabwe, nazione afflitta da, diciamo così, una galoppante iperinflazione. Questo qui ha reso familiari grandi numeri ai suoi concittadini, perché è riuscito a stampare monete il cui taglio va da un centesimo di dollaro dello Zimbabwe fino a 100 miliardi di dollari dello Zimbabwe. Fantastica. Non so se è una moneta. Una monetona. No, un bigliettone da 2 metri quadri. E ora, Federico, se sei d'accordo, concluderei con l'Ignazio Nobel per la veterinaria, e qui veramente dobbiamo aprire, fare un approfondimento, perché in Gran Bretagna hanno dimostrato che le mucche che hanno un nome, quindi quelle battezzate, producono più latte, ben 200 litri in più di quelle invece che sono anonime. E qui abbiamo un esperto. Un esperto. E il nostro esperto è Daniele Vigo. Buonasera, Vigo. Buonasera. Professore straordinario di fisiologia veterinaria all'Università Statale di Milano. Allora, la motivazione noi l'abbiamo già data: le mucche che hanno un nome producono più latte. Lei cosa ci dice? Tipo, se io dico Carolina, dai, fai più latte, lei funziona. Diciamo che questo è diciamo una ricerca che è stata premiata appunto nell'Ig Nobel, una ricerca inglese dedicata alla veterinaria degli animali da reddito, dove si è visto che appunto gestendo bene le vacche, chiamandole anche per nome, queste producono più latte. È la validazione scientifica di quanto è già noto agli esperti del settore, e soprattutto lo mantengono quegli allevatori che hanno grandi capacità di relazionarsi con le lattifere. Chiamare le vacche per nome, ricordo che non è una moda ma è un fatto secolare, ritengo di profonda cultura e di rispetto per un capitale vivente e produttivo che si deve mantenere tale. Abbiamo fonti diverse che ci dicono che i bovini sono sempre stati chiamati per nome. Andiamo addirittura da atti del Senato del Regno, poi ci sono parecchi scrittori, ricordo Guareschi durante il famoso sciopero in agricoltura di Don Camillo, in cui questo sciopero fu inficiato dal parto di una bovina, la mora. La mora. La mora. Le mucche della pubblicità, da Carosello in poi, la mucca Carolina è nota ormai a tutti quelli che hanno i capelli un pochettino più bianchi. Cioè, lei dice ci sono delle radici vere, storiche. Sì. E c'era una risposta dell'animale, ecco. Certo, cioè, l'animale si sentiva chiamato, un dato molto, molto importante. Il passare ad un numero insignificante, ad un codice insignificante, vuol dire perdere il rapporto con l'animale per l'uomo. Ecco. Lei dice questo... mettere la targhettina col numero del bovino. Questo lei dice, invece di dirgli lasciarla Lugina, anonima, lasciarla Lugina, una matricola. Flora, piuttosto che immaginiamoci di chiamarci con il codice fiscale. È tremendo, sì. Senta Vigo, noi non discutiamo sul rigore della ricerca, ma non è che è un'attitudine prettamente umana quella di dover personificare sempre gli animali, anche i pupazzi e anche le cose inanimate? Ma non è così un discorso di umanizzazione, è un discorso di rapporto ben definito. Cioè, come il cane risponde, tra 10 cani c'è quello che risponde al nome di Pluto, anche tra 60 o 70 vacche c'è quella che quando si chiama l'ora drizza le orecchie dall'uomo che è abituato a conoscerlo. Andiamo noi e chiamiamo l'ora, è chiaro che questa qua avrà un po' difficoltà a riconoscere il timbro della voce. Ma oltre a dare un nome, allora si potrebbe fare anche di più? Ma io personalmente sono convinto di sì. Migliorando il rapporto uomo-animale si possono sicuramente fare tante cose. I premiati di quest'anno hanno accertato scientificamente che nelle farm dove si chiamano per nome le vacche si fa più latte. Non oso pensare quante risate potrebbe innescare un premio assegnato a delle scoperte dove si vedrà che con pedicure, hairdressing, grooming e massaggi vari, le vacche, oltre a produrre più latte, ne produrranno di migliore qualità, cosa economicamente seria e sicuramente non visibile. Vabbè, qui però stiamo avvicinandoci al matrimonio, insomma, cioè, siamo pericolosamente... Però abbiamo dato dei buoni spunti per gli Ig Nobel 2010. Esatto, grazie molto Daniele Vigo. Grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Adesso Maurizio Melis vi parla del trentennale dell'uscita di un libro, ma anche insomma dell'inizio di una saga, la Guida Galattica per Autostoppisti. Milioni e milioni di anni fa, una razza di esseri pandimensionali, iperintelligenti, stufi marci del continuo battibeccare sul senso della vita, incaricarono due dei loro più brillanti elementi di progettare e realizzare uno stupendo supercomputer per calcolare la risposta alla vita, l'universo e tutto quanto. Oh, pensiero profondo! Noi vogliamo che tu ci dia la risposta. La risposta a che cosa? La risposta alla vita, all'universo, a tutto quanto. Ci piacerebbe una risposta, una semplice. Ci devo pensare. Ritornate in questo posto tra 7 milioni e mezzo di anni in punto. Buonasera Andrea Bernagozzi. Buonasera Maurizio Meli. Andrea Bernagozzi è un ricercatore, attualmente è impegnato in un programma di ricerca di pianeti extrasolari all'Osservatorio della Val d'Aosta. Questa sera però è qui con noi in quanto grande appassionato di fantascienza. È autore tra l'altro di La Fantascienza a Testa e più recentemente di un testo, lasciatemi dire, a metà tra fantascienza e divulgazione scientifica, ma anche con un taglio umoristico, scritto con Davide Cenadelli e intitolato Seconda Stella a Destra per le edizioni Sironi. Dunque Andrea, tu sei con noi perché in questi giorni cade il trentennale della pubblicazione di un bestseller della fantascienza umoristica, Guida Galattica per Autostoppisti di Douglas Adams, che uscì appunto nel 79. Mentre quello che abbiamo sentito è uno stralcio del film che ne è stato tratto nel 2005, quindi molto più di recente, a dimostrare però che Douglas è ancora molto attuale. Anche se mi pare ci sia un po' un ritorno ai classici della fantascienza, pensiamo anche a Star Trek, cosa ne pensi? Che ogni tanto si può guardare ai classici, però guardandoli con gli occhi nuovi, così da svecchiarli. Senti, prima di dire altro sulla Guida Galattica, immagino che siano tutti curiosi di conoscere la famosa risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto. Quindi torniamo un attimo a pensiero profondo, 7 milioni e mezzo di anni dopo. Pensiero profondo. Hai la risposta per voi? Sì, ma non vi piacerà. Non importa, dobbiamo conoscerla. Va bene. La risposta alla domanda fondamentale. Sulla vita, l'universo e tutto quanto è... Va bene, allora, 42, che commenti hai da fare? Allora, innanzitutto volevo tranquillizzare gli ascoltatori che magari non hanno mai visto il film o soprattutto non hanno mai letto il libro di cui stiamo celebrando il trentennale, che questo non è uno spoiler, si può benissimo leggere il libro e godere della fantasia di Douglas Adams anche avendo saputo qual è la risposta alla vita, all'universo e tutto quanto, per un semplice motivo, che poi a questa risposta fondamentale manca la formulazione esatta della domanda fondamentale, per cui la ricerca non ha mai fine, anzi continua, e il volume parla anche di questa ricerca della domanda fondamentale. Insomma, ci sono diversi piani di lettura per questa, che è un'opera che diciamo superficialmente potrebbe essere considerata demenziale, per così dire, invece non lo è. Ecco, dacci qualche coordinata, come è iniziato tutto, da dove è saltato fuori questo libro? La Guida Galattica per gli astrostupisti non nasce esattamente come libro. Douglas Adams è un autore radiofonico, un autore anche televisivo, e scrive questo spettacolo radiofonico, La Guida Galattica per gli astrostupisti, per la BBC, niente poco di meno. Ha un grande appassionato di fantascienza, un grande appassionato di letteratura, un grande appassionato di scienza. La trasmissione radiofonica ha grande successo in Inghilterra, quando poi diventa romanzo, il successo diventa planetario. Ecco, prende un po' in giro anche tutta la comunità, sia degli scienziati, insomma, che dei pensatori, anzi potremmo dire dei ponzatori, non trovi? Assolutamente. Da questo punto di vista dobbiamo ricordare che Adams, se mi permettete di azzardare un paragone, potrebbe essere avvicinato a un altro grande scrittore del passato, Jonathan Swift. Nei viaggi di Gulliver, Jonathan Swift prendeva di mira il suo tempo e le cose che non gli piacevano della società inglese dell'epoca, attraverso la figura di questo viaggiatore Gulliver, che viaggiava per la Terra scoprendo terre ignote, dove incontrava figure caricaturali che mettevano in evidenza i difetti della società dell'epoca di Swift. Douglas Adams fa lo stesso, con ovviamente vivendo nel XX secolo, e non si può accontentare della Terra. Questo viaggiatore deve guidare addirittura la galassia con l'aiuto e l'ausilio di una guida, dove ci sono scritte tante cose, forse pure troppe. È una specie di manuale delle giovani marmotte, di super enciclopedia, che però ha un grande successo nella galassia perché costa poco. Sì, infatti, si preferisce all'enciclopedia galattica soprattutto per una cosa, perché costa un po' di meno, e quindi da questo punto di vista può essere più utile per l'autostoppista, perché se uno fa autostop vuol dire che evidentemente tanti soldi per andare in giro non ce li ha. Non ce li ha. Ecco, senti, per dare un'idea dello stile di Adams, credo che possiamo ascoltare un altro stralcio di audio, sempre dal film. È importante notare come all'improvviso e contro ogni probabilità un capodoglio si fosse materializzato parecchie miglia al di sopra della superficie di un pianeta alieno. E non essendo questa una condizione naturalmente sostenibile per una balena, l'innocente creatura ebbe pochissimo tempo per accettare la propria identità. Ecco che cosa pensava mentre cadeva. Ah, oh, che succede? Chi sono? Perché sono qui? Qual è il mio scopo nella vita? E soprattutto che significa chi sono? Ok, calma, calma, riprendiamoci. Ah, che sensazione interessante. Che cos'è? È come un pizzicolino alla... Sarà il caso di cominciare a dare nome alle cose. Chiamiamola coda? Sì, coda. Ehi, che cos'è questo fragore che mi sibila intorno a quella che chiamerò testa? Vento. Come nome? Funziona? Sì! Ho le vertigini da cose nuove. Sarà il vento? Ce n'è veramente un sacco adesso, eh? E che cos'è che mi sta venendo incontro tanto in fretta? Così grande, piatta e tonda. Ci vuole un nome altisonante, anzi, altisuonante. Suono, suolo, perfetto, suolo! Chissà se diventeremo amici. Ciao, suolo! Va bene, capodoglio è finito malissimo. Insomma, in un minuto un capodoglio ripercorre tutta la storia della filosofia su chi sono, dove vado, e questo è un po' lo stile, no, di Adams. Assolutamente, e purtroppo va verso la catastrofe, va verso l'impatto del suolo. E certo, l'ultimo boato. Questa pretesa appunto della scienza di sapere tutto può far sembrare che magari Adams fosse molto critico nei confronti della scienza. Lui era un grande appassionato di scienza e tecnologia, al contrario, però è critico nei confronti di questa pretesa di sapere tutto, e soprattutto perché la scienza, secondo lui, insegna che c'è un universo dove a regnare sono le coincidenze e le improbabilità. E viene accolto bene tutto questo dalla comunità degli scienziati, eh? C'è un rapporto. Gli scienziati sono entusiasti, lo fanno proprio una specie di scienziato ad onorem. Gli scienziati rendono omaggio a Douglas Adams anche proprio prendendo le espressioni del romanzo e utilizzandole come proprie. Per esempio, c'è una frase che è tipica del romanzo, che viene ripetuta spesso, don't panic, in inglese non fatevi prendere dal panico, quando qualcosa sembra non tornare, quindi forse quella teoria che stanno proponendo va a monte. È un classico sentire che lo scienziato va al microfono e alla platea dei suoi colleghi dice don't panic, non fatevi prendere dal panico, citazione esplicita della Guida Galattica. Ebbene, allora, se ancora non avete letto il libro, non avete visto il film, dategli un'occhiata, e anche se vi abbiamo svelato molte cose, don't panic, perché ce ne sono parecchie ancora. Grazie Andrea Bernagozzi. Grazie, e tenete sempre a portata di mano un asciugamano che può essere utile. Siamo alla soluzione del quiz, allora, adesso capirete perché abbiamo questo quiz. Quanto può vivere una mucca? 60 anni, 50 anni, fino a 25? La risposta esatta è 25 anni, poco. Qualcuno avrà pensato che essendo un animale grande le fosse concesso più tempo di vita, invece no, vive poco la mucca. Qualche caso eccezionale lo si è avuto. Nel 1993 una mucca statunitense chiamata la Grande Berta, vedete che aveva un nome, morì a 49 anni. Tante cose vi abbiamo raccontato in questa puntata, molte altre ve le racconteremo la prossima settimana. Buona serata a tutti e a tutte.